Se, poza. Poza. We song. Dammi un attimo a testa. Il mondo piange lacrime su guance universali, pagine di vita sulle teche di biblioteche ancestrali. L'uomo svela il segno del percorso ogni suo passo, e dalle orme degli antichi fine tempi del trapasso. Acciaio lustro mostra il mostro della degnoranza, che partorisce figli sporchi di disuguaglianza. Libertà oppressione sul volto riflessi porpora, miscela di un'ampolla con monossido di collera. Il sole si riflette su ville prefabbricati, sulle case popolari, su sbirri e sui ricercati. Piove sulle carceri, su ogive incandescenti, inferno alle appendici, il paradiso è il luogo per borghesi. Vivo celere perché il tempo mi sbrana, cammino sui secondi e cielo i miei quesiti per Cassandra. L'ingiustizia prende fuoco perché il tempo per chi spera è sempre troppo poco. Angeli caduti mi accompagnano all'ingresso, e da adesso in poi dovrò contare solo su me stesso. Vortici confusionali, slogan la ragione, gli slogan del progresso sintetico in televisione. Abbi cuore uomo, sfruttalo bene, vanne fiero. William Will, posa click, diteci se il chip è pieno. Parallelo anomalo, collocazione critica, il mondo è tra le mani d'Ares, o così si vocifera. C'è confusione nella testa, aspetta, dammi un attimo, dacci un attimo a testa. Troppi suoni, manco fosse un'orchestra, amico aspetta. C'è confusione nella testa, aspetta, dammi un attimo, dacci un attimo a testa. Troppi suoni, manco fosse un'orchestra, amico aspetta. Non penso che si goda il togo perché la TV lo offre, ma la gente vera è sempre in moto tra crisi di mercato, Dow Jones e Nasdaq, elaborando pensieri, cercando lavoro per soldi in tasca. E la massa che segue il gruppo si lamenta, poi si frammenta senza lasciare un frutto. Si spaventa di ciò che inventa, lascia tutto perché non ci sarebbe guadagno ma solo perdita. Confusione l'immagine che ci mostra la ragione, non c'è più chi ha torto e chi ragione. In ogni tradizione in confusione, persone così sbadate da non ricordare il proprio nome. Al mondo c'è la guerra in atto, ma non ci pensi perché sei distratto dai tuoi cinque sensi, e gli incensi dell'amore ti fanno adorare solo il tuo fiore, che ritieni che sia del più bel colore. Ma questo è l'errore, perché mattone su mattone si fa in confusione, perché di neuroni ne è più di un milione. Questa è la questione, e ogni giorno l'ordinaria situazione. Marker e vagone, spray e stazione, dare 30 euro al mese il capo stazione. Presto è l'orario, le mannaggie con ritardo, l'inseguimento del controllore e poi il suo infarto. C'è confusione nella testa, aspetta, dammi un attimo, dacci un attimo a testa. Troppi suoni, manco fosse un'orchestra, amico aspetta. C'è confusione nella testa, aspetta, dammi un attimo, dacci un attimo a testa. Troppi suoni, manco fosse un'orchestra, amico aspetta. Musica verace, versificazioni anomale. Ok, ci siete o no? Ok, ci siete o no? Aspetta.